antenne ce le ha tutte, sto regalando 600 euro di direttiva, io non l'ho smontata a due. Ma sarà fatta per lui proprio, perché gli ho detto se ti prende la patente ti regala la direttiva. E lui c'ha il posto per metterla, c'ha tutto, c'ha traliccio, c'ha rotore, c'ha tutto, tutto pronto. E così si diverte un po', dai. Lui le piace molto la radio, quindi io ci sono già passato, però a me non interessa più. Io quello che ho fatto, adesso va bene così. Continuo a divertirmi 27 quando è possibile, quando non è possibile, glielo vedi. Entro se c'è gente che mi interessa, se no rimango in ascolto. Va bene, sono contentissimo perché era un suo obiettivo, l'ha raggiunto, ma come me, nel senso che cioè, noi siamo sempre CB, io non l'ho mai lasciata, quindi anche lui la lascia, non c'è problema. Però se capita dobbiamo fare qualche prova, qualche cosetta, si può fare, eppure il problema, io l'ho sempre detto. Per me è stato importante per la retenzione delle radio, perché io sono amante di queste radio e avevo sempre paura, quindi solo per quello, per il resto non me ne fottevo più nulla, io non sono mai stato un operatore vero e proprio come i miei colleghi che sono veramente preparati in materia e fanno quello, perché devono fare quello, io non lo so fare e non lo faccio. Ma ha utilizzato il computer che l'ho sistemato? Penso di sì. Allora, il discorso è, ti faccio un esempio, no? Secondo te è più facile prendere una patente di pubblica che la patente amatoriale? No, sono due cose completamente diverse. Devi studiare entrambi, sicuramente, però sono due cose diverse, lui. La patente amatoriale è tosta, cioè sono delle. Cioè un isaie e non isaie. O sei preparato o non sei preparato, c'è da studiare. Cazzo non c'è. Elettronica tu mi insegni che è vasta, c'è sempre da imparare, sempre. Un tecnico che è tecnico, che ci lavora 10, 12, anche 24 ore sui circuiti stampati, su in generale, sulla componentistica, c'è sempre qualcosa di nuovo, sempre tu. Aspetta, lui ha dato l'esame praticamente in diretta, ma senza niente, non c'aveva nulla davanti. Nulla davanti, ma te scherzo. C'è la webcam inquadrata su tutto il tuo piano e le mani devi mettere davanti, ti inquadrano le mani, ti inquadrano tutto, è un esame a tosto, non è che cuscino, cazzo di buoni, un libro davanti risponde, no? Fatto raccontare Roberto come intera, no. È diretto, è molto, molto tosto, sei seguito, capito? Dura 5 minuti, 8 minuti è durato, ma 8 minuti devi sa papà, o sai o non sai. Certo. E gli esaminatori quanti sono qua? C'è il presidente della commissione, quello che ti interroga, il professore e il segretario. Poi si riunisce la commissione, ti dice ok, ci scolleghiamo per 5 minuti, ci riuniamo in commissione e vediamo l'esito. 10 minuti abbiamo dato l'esito, è stato idoneo, bravissimo, 5 su 5, e poi gli hanno detto un'altra cosa, non mi lamento cosa. Comunque alla fine già è da parecchio che stava prendendo. Per me iniziare da oggi, un esempio ti faccio, ma voglio prendere così, giusto per gioco, là, diciamo così, per gioco, ci voglio provare. Così, per una tua cosa personale, fallo. Io ho sempre detto una cosa, parlo per me personalmente, a me degli altri poco mi interessa, ma io quando ho voluto una cosa l'ho sempre ottenuta, sempre, capito? Sempre. Io immaginati quando è venuta la prima volta l'Escoradio, io avevo più radio di adesso, avevo CB, pirata, VHF, VHF, HF, TL922, altro di tutto. Allora c'era il signor Pires, quando è entrato mi ha detto lei è un pazzo, perché io sono un pazzo, posso essere anche un pazzo per lei, però io sono amante della radio, a me piace la radio. Allora se le piace la radio, lei deve andare a prendersi la partenza delle mattoni. Dove ci proverò. In questo momento lei è passibile, mi pare che era in lire 6 milioni di multa, però mi ha detto siccome capiamo qual è il suo problema e qual è il suo hobby preferito, qual è la sua voglia proprio di fare radio, noi chiudiamo un occhio, facciamo verbale di controllo e basta. Però stia attento perché la teniamo sotto controllo in una maniera strepitosa, strepitosa. E abbiamo fatto una promessa, te lo giuro come oggi sull'aria. Ho stretto la mano, siamo preso, ho detto guardi, quando sono gli esami, mi pare che era venuto nel mese di, era d'estate comunque, quindi gli esami erano sempre a giugno e ottobre, sempre, adesso li hanno cambiati, vedi, solo novembre, per questo cazzo di epidemia, eccetera. Era venuto d'estate, ho detto guardi, lei al prossimo inverno può ripassare qua, e io ho la patente. Mi ha detto, mi stringe la mano, le sto dicendo io ho la patente, perfetto, io la prendo in parola. Mi sono composto a studiare con la buona maestra là, me lo ricordo, cazzo studiavamo alla grande, tutti i santi giorni, però c'era anche la telegrafia, però io ho detto, diamo la speciale, senza la telegrafia, poi si vedrà. E così abbiamo fatto tutte e due, e siamo andati, infatti io ero W0RT, lui era W0RE, capito? E siamo andati a dare l'esame promosciare a Brimma. Siamo entrati in stanza alle 8 del mattino, siamo partiti alle 5 e mezza da Sassari, capito? Alle 8 c'erano gli esami a Cagliari, via Scimetto, non ricordo come oggi, eravamo 120 persone. L'esame è durato dalle 8 a mezzogiorno, pusato, scritto, compito scritto. E sono passato alla Brimma. Quando comunque, per farla breve, sono tornati, mi hanno fatto i complimenti, te lo dico tranquillamente, mi ha detto bravissimo, ha visto, se lei vuole una cosa la ottiene, allora devo fare già la prima, complimenti, bravissimo. No, io ti giuro, dal 1992 io non ho mai avuto nessun problema con l'escoradio, con qualsiasi cosa, mai, e poi mai. Dopo che sono diventato il W0, dopo un po' di anni ho dato l'altra esame per la IS0, e invece mi hanno esonerato perché io militare ero radiotelegrafista a bordo del Vittorio Veneto, e quindi mi hanno esonerato dalla telegrafia e sono passato dal W0 a IS0. È normale, se uno non ci prova è così. Poi vabbè, per il costo, costa una cazzata, la fine 25 euro di marca d'Apollo non è che costa chissà quanto. E vabbè, adesso magari prima mi finisco quello che sto facendo, tutta la baladam, visite, controvisite, devo fare un po' di visite anche, e poi una volta che finisco, sono a posto, tutto quanto, allora mi ci posso anche mettere a studiare. Ma ci vogliono i libri? Ce li ho io, ce li ha Roberta, non ce n'è problema, tanto sono sempre quelli, capito? C'è già Roberto, c'è anche cose dei quiz che ti puoi fare, matita è uguale, il sistema è uguale a quello della patente della macchina, uguale, precedenti, capito? Ti fai il quiz, poi vai a vedere se hai fatto bene, se le risposte le hai date giuste, guardi quanti errori fai e ti correggi piano piano. Noi non ce n'era quiz, il nostro era scritto, il nostro era devastante. Fare tutto il compito in brutta, poi lo dovevi copiare in bella e allegare come un compito di un diploma, la stessa cosa, poi dovevi allegare alla bella, dovevi allegare anche alla brutta per vedere se avevi fatto cancellazione, quali erano gli errori, se avevi copiato, se ne abbisavano i giubidù immediatamente. Qua invece ti interroga online ed è più semplice, anche perché dura poco, non sei stressato, sei a casa tua, capito? Noi siamo partiti alle 5 del mattino siamo partiti per andare a Cagliari, uno stress, un sonno, un tracumoso, poi dovevi stare tutti lì in fila, tutti i documenti, ti chiamavano, lì si accumulisce, un esame di stato, guarda, me lo ricordo come oggi, era una grande rottura di balle, ma un bel, cioè, questa è più semplice. e ti prepari e basta, rispondi, poi ve l'ho già detto. Chi ha le basi per dare un esame al rematore è molto più facile di chi non ha le basi. Voi ce li avete, siete tanti che avete le basi, siete parecchi, capite? L'elettronica la conoscete, l'elettronica generale la conoscete, e già quella è una base di partenza. Magari non conosci l'elettronica generale, le viene un po' male, le viene in salita. Certo, devi conoscere i componenti anche, presumo, Elettronica generale, come conosci tu, capito? Tutto, tu conosci tutto, perché se fai le riparazioni conosci tutto, mentre uno che non conosce niente, le viene male, capito, le viene male. A Roberto l'hanno, una domanda seria gli hanno fatta, se mi ricordo, è rimasto un po' così, però gliela spiegata benissimo, molto molto bene, perché loro quando vedono, soprattutto in questo esame così online, quando vedono che tu hai studiato e che sei preparato e ti mettono a tuo agio, mi dica con parole sue questo, tu glielo spieghi in parole tue, loro vedono che conosci qual è la domanda che loro ti hanno fatto, capito? E quindi te la fanno passare. Roberto ha risposto benissimo, alla grande. Vabbè, ma comunque ha già preparato anche, non è da oggi a domani, no? Capito qua, è così. E ci voglio provare, dai, giusto così, poi se mi ribadono se ne affutti, non è che ne becchio la rete, Visti, non ne ho, avrò posso fare una prova. E certo che sì, ma Roberto era anni che non toccava libro. Roberto è andato un po' di anni fa, siccome era scritto, il compito era scritto, aveva fatto, adesso mi ricordo se erano tre errori, e non era passato, capito? Però certo aveva risposto a tutti gli altri, cioè tre errori era, si poteva anche far passare un candidato, invece non fatto in bassa nuda, adesso sono un po' più elastici, un po' più tranquilli, capito? E quindi è andato bene, sono contento perché veramente era un suo obiettivo, una sua cosa personale e ci è riuscito, già va bene, ma soprattutto per l'attenzione, Roberto c'è una sala radio, ho paura, non si trova mai vista, ma la paura vera, la paura bellissima, è più grande della mia, a tre piani, è simile a quella che avevo io a Carbonanzi, adesso ne ho poche io dopo, ma bella bancone, banco proprio a tre piani, con tutti i separé, tutti, bella sala radio, c'ha tutto già pronto, tutto. Adesso si monteremo le direttive questa primavera, il polo ce l'ha già, ne ho dato io, quello 10, 15 e 20, no, 40, 15 e 20, quello a scaletta, quello ragno, lo montiamo da una parte all'altra, intanto iniziamo con quello, la VLU ce l'ha già, c'ha tutto, non mi manca nulla. Poi se vi serve una mano chiamatemi, aspetta l'antenna, già vengo, non c'è un problema. Un giorno che, adesso un sabato, cosa ci vuole per questa antenna? Basta una giornata. No, una mattinata, poi lì non siamo a 40 metri, lì è terrazzo con parapetto, puoi camminare tranquillo, è un terrazzo normale, c'è il muro da più di un metro e qualcosa, non so se è 1,20 m o 1,50 m, bello il terrazzo di Roberto, c'è un bel spazio, poi casa Gioia, non rompere il balle nessuno, quindi sicuramente farà un bel lavoro, c'è tutto. Se lo sto regalando per la promozione la 5 elementi, quella che hai smontato tu, per i 6 metri, se lui c'ha la radio anche con i 6 metri, c'ha il rotore, gabbia, il mat, tutto già pronto. Adesso poi vabbè, lui è anche amico di Fabrizio, quindi sicuramente gli darà delle dritte a Fabrizio, vedrà un po', gli ho regalato il commutatore della Meritron, quella 5 elettronico, ho regalato un sacco di roba a Roberto, tutta roba pronta da montare, tutto l'impianto ce l'ho io, l'ho regalato a lui, ho detto è un grande con me, quindi merita, c'è un bel commutatore a 5 della Meritron americano, a relè, capito, unico cavo, 5 antenne, puoi attaccare quello che c'era su. Ah, quello che, sì. Già mi ricordo, e oggi ho visto un video, allora, questo tipo che fa catrame, era su questo tetto, questo palazzo alto 10 metri mi sa, 10 metri, e si è messo al bordo, dimmi tu cazzo, allucinato, l'ho dovuto spegnere che cazzo, voleva fare un infarto. Ci ha messo, il piede proprio al bordo, c'è uno lì, un attimo, ci scendi giù e ciao, Ma che cazzo ha fatto questo qua? Comunque stava facendo vedere all'altezza che era, senza parapetto, senza niente. Meno male da te, insomma, un po' era più, insomma, era più tranquillo, ma qua proprio zero, un tetto normale, senza parapetto né niente. Ho dovuto spegnere la sua diretta. Dove hai fatto il video tu non c'è parapetto, c'è 50 metri, ma non ha detto, no? Dove poi ci siamo messi dopo, cosa c'è di parapetto? Non c'è né parapetto lì, c'è il murettino per l'acqua e basta, non c'è né parapetto lì a Carbonazzi, ma c'è 50 metri, però stai scherzando, lì è pericolosissimo, lì chi ha montato le antenne assieme a me sono professionisti, capito? Se no io non avrei mai montato antenne lì. Io salivo, montavo Mantova, eccetera, ma antenne così grandi, già hai visto per scendere nell'altro elementi cosa abbiamo dovuto fare, pericoloso. No, vabbè, claro, questo qua è un palazzo di 10 piani, Ah, 10 piani, allora mantengo meglio, sono 45 metri. 10 piani, 10, sì. 10 piani. Aspetta, là, qual è questo qua? Aspetta che scrivo, sto mettendo, siccome c'ho quei cuscini, quelli in coso, là. Quelli che tu schiacci, no? Quelli in, non mi ricordo il nome, vabbè. No, quelli cuscini per dormire? Sì. Ce l'ho anche io, quello ortopedico. E quello che tu schiacci, no, per la tua forma. Sì, ortopedico ce l'ho anche io. Sono molto bene. Li ho comprati tutti. Tranne l'aria che no, ce le dorme male, ma io e Anna ci abbiamo quello. Anche qua nella cameretta ho le radio, e c'è il lettino, mi riposo, può pranzo, estate, c'è un po' di fresco qua. C'è lo stesso quel cuscino lì. Gappa, andavè. Diciamo che sono mezza cagata, perché prendono la fona e poi si abbassano. Mi sto mettendo il copricuscino. Cazzo, un casino interattivo. Perché sono, gommosi. Questi sono la loe, questo qua è la loe, c'è a vedere. No, questo no, forse è l'altro la loe. Vabbè, dai, comunque. Sono contento per Roberto, almeno. Ce l'ha fatta, dai. Non è bugia di gioca, Io ti ho detto, quando uno vuole una cosa lo ottiene, e va bene. Sono contento, sì, adesso domani passa. Gappa, poi ci metteremo d'accordo per andare a Carbonazzi e prendere questo materiale, questa roba, c'è anche un po' di tubi che deve volare. Va bene, cazzo, non ho più sentito Antonio Bombolo, non si è fatto più sentire, non lo so. Vuol dire non ha gana, non lo so, però. Non mi ha detto niente a me. Vuol dire non ne ha più voglia. Ah, perché c'è ancora il coso su il Carbonazzi. E mansarda, allora buttiamo che buccio. E così pieno quella stanza, già la stavo svuotando perché devo fare i lavori. Sono rimasti tubi, sono la direttiva 5 elementi, c'è il dipolo, poi cosa c'è? Ci sono staffe, un sacco di roba c'è ancora. Sì, c'ho la chiave. C'è la chiave del portone e la chiave di su della mansarda. Non è un problema quello. Quello non è un problema. L'ho lasciata lì. Adesso quando porto via tutta la roba, poi basta. Non c'è più rimasto più niente. E devi avere la chiave, giusto? La chiave di cosa? Della mansarda? No, la chiave del portone, basta. Ma quella della mansarda me la tengo. Non ho fatto passaggio della mansarda, c'ho sempre un quinto io ancora. No, ho capito. Andava, te la utilizzi, vaffanculo, va. Sei fasciata, se no, questa è ancora questa cosa, no. Sei fasciata. No, utilizzi tu, ho lasciato questa roba lì. Basta, poi quando la... non lo so, poi qua c'è, volevo controllare, poi sono rimasti un paio di trulli, qualcosa, di momento l'avevo portato via, ma non c'era molta roba mia. Ma c'erano tutti i mobili, quelli che c'erano, quelli li ho regalati a quella che ha comprato la casa che le serviva. Gli ho lasciato cucina, gli ho lasciato gli armadi a muro, quelli a incasso, la dispensa, gli ho lasciato la tenda del poggiolo, gli ho lasciato una base per il salone che le serviva e ne ha già regalato di cose. Tanto qua era veramente tutto nuovo, qui non me la facevo nuovo, niente, capito? Ma sei fasciato, Duca, abiti in culo. Ma sai che lo metto qua? C'è tutta la cerniera. Sai che lo metto qua? Se ne frega, tanto già... Questo qua, allora, questo qua dove ci appoggiò la testa, allora è vera. E mi pare che il mio sia così e quello di là, di Anna invece è diverso, più vino, sempre ortopedico però. Ma dormo benissimo io, dormo benissimo. Poi ne ho comprato un altro anche per Filippo, glielo metto a materassino, lui c'ha il materassino, glielo metto a tipo per ammazzami. Lui quando si appoggia mi sprofonda. Mi ha risolto, tutto. L'ho messo qua. Via. Adesso domani devo andare a pagare la... Vabbè. È arrivata la luce scaduta. Vabbè, scaduta. Di un giorno è scaduta. In ritardo. 160 euro. E vado giovedì a pagarla. Luce e internet. 200 euro. 160 euro lì dove è da tua madre? Sì. Non è molto, ma non è neanche poco. Ecco, io uso la sua capelli, non la faccio tanto bene, la faccio tanto io. Da qualcosa non ce l'abbiamo, quello che metti sulla porta, raba, un casino questo. Faccio la sua capelli, poi uso molto il ferro da stiro, capito? E meno male non c'è più la TV, quella al plasma. Ah, cazzo, come sono un po' di corrente, infatti l'ho fatta, ho detto Bugattini, la pila di la LED, che consuma un bel quella, infatti anche io ce l'avevo Panasonic lo stesso, e me l'ho venduta la mia, ho la tipa, tanto sicuramente mi chiamerà, è già passato più di un anno, mi chiamerà che non vede più i canali, beh ti credo, non c'erano di ultima generazione, no? Però era nuovo, fiammante, devo dire fiammante, io gliel'ho portato lucido, manco un coso di polvere c'era attaccato. Quello lo tenevo conto veramente. Lo bullio spesso e volentieri. Poi quando l'ha vista è rimasta meravigliata. Cavolo, nuovo, cosa diceva nuovo? Alla fine ci ho guadagnato chissà quanto. Ah, quelli... Hai già capito. No, il mio è già 3 anni neanche. È il LED il mio, Smart TV, io vedo tutto, ho già memorizzato, vedo tutto, non c'è problema, anche l'aria sta tardando, porca puttana, va giù, mi cazzo qui cieco. Io ho mangiato qua, 2 toast ci ho messo, prosciutto, maionese e fontina, e poi Marina ha fatto la pavari bisari, quella fresca però là. Era dal padre, stava in freezer. Peperoncino, hai preso il peperoncino? Buona, ho cenato bene. Ma sei da Marina, sì. No, io faccio questa modulazione da Marina. Sì, non pensavo che si allontana sai. Comunque sono a casa della mamma. Ero costretto a venire qua perché avevo l'antibiotico anche. Dovevo prendere l'antibiotico alle 9, l'ho già preso. Cazzo di coso fastidioso, tutto merda. Ecco qua, risolto tutto. Almeno è pulito. Poi già non era brutto, però l'ho sciacquato. L'ho sciacquato. Ecco qua. Non manco. Cioè, c'ha questo cazzo di cosi, peluzzi. Ecco qua, pulito. Sì, adesso fino a vediamo cosa fare. Ci voglio provare. Comunque io mi ricordo, chiamarla che la conosci, eh. Una signora lì a Cagliari, che ho chiamato per quanto riguarda la cosa della licenza d'ascolto, no? Che non mi era arrivata ancora. E mi aveva detto, perché non ti prendi la patente da materiale? E io lì mi sono buttato lì, no? E a te non mica è così semplice prendere, sa? Basta provare. E si prende la patente da materiale. Se ti piace. E a te, vabbè, ci proverò fin là magari. Vediamo se riesco. Vabbè, mica vostro umano come ti posso dire, in chi mi va se serio, davvero. Qua faccio lo scemo così, va. Lì. Cioè, come si dice, vado, ti devi comportare bene, non devi volo macco, non devi entrare, giusto, corretto. Ah, sei bene, hanno fatto un po' di casino, 5:25, certo non puoi fare sui punti perché ti ascolto a Tassa Venia, ma quando sei in diretta, così nella locale di Sassari, non ci divertivamo un po', ma stai scherzando. Siamo un po' sgazzati, certo un po' di parolacce, però ci divertivamo un bel. Io, Marco, Fabrizio ancora non era arrivato, con Marco, con Walter, con altri della Gref, ma vai, ci può divertire anche lì, non ti preoccupare, è chiaro che devi stare un po' più attento nel parlare, però cioè, ti diverti anche lì a futti. Esitando da denominativo a Roberto, ci facciamo la frequenza VHF, ci facciamo dei bellissimi question con Gianfranco, capito? Non sempre quando capita, ma un po' di prove le dovremmo fare per vedere un po' di sistemare il rugby. Comunque, è bello, io mi sono divertito un sacco, soprattutto quando ho iniziato, era una cionfa totale. Cene che non facevamo, poi quando dovevamo alle riunioni, finta riunione, tutti a mangiare la pizza che se ne avrebbe a ghire. Ma dopo quanto gli arriva la nominativo? Adesso le mandano la patente, una volta c'è la patente fa richiesta di nominativo, e le mandano la licenza sul nominativo. Vabbè, più o meno il tempo, quanto tempo passa? Al prossimo mese c'è tutto, Roberto. Al prossimo mese penso, forse anche a fine mese, dipende se sono veloci. Aspetterà con ansia adesso. E poi si paga 5 euro l'anno? Sì, 5 euro all'anno. Si paga 5 euro all'anno, dicembre, siamo a novembre, dicembre, vabbè io la faccio sempre il dopo l'Epifania, c'è tutto il mese di gennaio, non l'ho mai fatta, Milaria arrivata. Levate l'aria, Rogari, ti saluto, vado a mangiare, sì, ci sentiamo dopo, ok? Via, ciao Claudio, buona cena. Adesso saluto a Marina e la buonanotte, la c'è accesa, va. Via. Bidi bidu bidi bu. Hola. Mi sembravi bruciato, Lo pignarma. Ah vai, molto grosso. I tardi che di Claudio, ha detto tanto non è più entrato. Ma tu non stai più entrando. Stasera era accorto, no? Sono pantino che sto entrando, solo che molte volte sono impegnato, capito? Certo, ci mancherebbe. Quando ci sono impegni va bene. Oh, ragazzi. E poi sabato erano stati via tu. Ah, alle 2. Notte, cazzo alle 2. 2:30, smontare tutto e via. Avaro Vinti faccio una suo compleanno. Ma di chi? C'è una che abita lì. Ora. Se andendo, sì. Cazzo truccoso. Hola. Aspetta. Hola. Adesso già va. Sì, di una che sta a fare il compleanno. Capito? Eia. E vabbè, tanto mi sa se questa settimana non ci vengo io. Perché fino a domenica devo prendere l'antibiotico. Vabbè, posso farmi un salto. Boia, cazzo. Ecco qua. Vabbè, faccio un salto, facciamo un salto sabato. Ma dici che allora dici che sarà andato, vero? Allora fa le 5, le 6 mattino, le 7. Sì. Perché? Stavo pensando un giorno di andarci. Sai cos'è il discorso, Antu? Il discorso è questo, che se bevi, vabbè, tu non guidi. Però io bevo, Marina beve, vabbè. Oddio, non è che beviamo molto, già te ne sei accorto, oppure ti beviamo poco. Però, cazzo, lì è un casino. Dobbiamo decidere un giorno non bevo lei, oppure un giorno non bevo io, e così andiamo via tranquillamente. Anche i bozzi di blocco uso sempre in kiwi, per Danieda. Beh, kiwi ce ne vuole. Capito, è così. È così. Bisogna stare attenti. E stavo parlando con Claudio, è andata a cenare. Capito, e guida Sara, ha detto. Se tanto Sara non beve, non ha patente. Ma con il ritorniamo tutti in cerottate. Vabbè, lì non beve. Tutti in cerottate, anche la prima cantonata, cazzo, biglietta. Vabbè, mica è così difficile di guidare la macchina, va. Già è facile. Vabbè, io ho il così perché sono anni, ho 21 anni la patente. Però già è facile, dai. Una volta che prendi la mano è come se stai guidando la moto uguale. E tu non hai la patente, io non è che voglio assai, ma io la patente, io. Tanto, bisogna andare tranquilli. Che poi si viene, si vintieggi, già. Già ci possiamo ritornare. Sì, ascolta, e tu la patente ancora niente? Adesso questo mese ci riproviamo. Già va bene, la prova, tanto non costa niente. Beh, costa, questa patente è una macchina goccia. Costicchia. Sai cos'è? Se ti trovano bevuto la prima volta, mi sa che te la ritiamo per un mese, e poi per un anno, alla terza volta te ne abbiamo te la teni più. Già lo so, cosa c'è? Se aspettiamo ad Antonio, facciamo prima a farcela a piedi. Ciao Sara, Agusie. Una volta già se l'avevo fatta a piedi, in imbriachera. Ero curabile, così ero. E dove? Quella discoteca che c'era in Viale Porto Torre, se giù. Erami gotti, erami, Giulia. Ma ci facciamo un salto anche in via Sardegna. È bello, Mianto. Venite con noi in macchina. Un giorno lo facciamo. Si può fare un sabato, no, questo sabato no. Un sabato. Si sta bene. Si sta bene, grande. L'unico problema, sai cos'è? Fittinare tutto via Gozu di Brissu. Via Gozu di Brissu, è una cosa. Perché lì cucinano, hanno la cucina. E in bagno degli uomini, cazzo, avevano un fiago di Brissu. Tutto quanto si attacca, è tutto. Anche le mutande ci passano. Bisogna pure un altro fiago. Fiago di Ghignarma, cazzo, grande sabato è compleanno tu, così, o venerdì. Eia. Chissà Alessandra, per carità, stiamo che è passata, via, si era sconvolta. Maga, Sandra, care baratto. Cioè, Sandra, quella di Mario. Alessandra, Va che sta canta sconvolta era. Per carità, faceva schifo. E allora? Era di gente, cazzo, ma sarà lasciata, cazzo. Ma vaffa, ma quando mai? Chi dovrebbe stare con signora Gozo, cioè? Roba fuori dal mondo. E cosa vuoi fare? Va via, per carità, cazzo. Tutta la bocca impastata va via. Tutta la bocca impastata. Accedi, mi sta accedendo da Facebook col computer, adesso mi arriva la notifica. Ha detto che ero triste da solo, ha detto. Che tu mi accarezzava a tutta giù, ma chi c'è tanta sconvolta? Beh, per carità, ragazzi. Io stavo rispondendo male. Questa volta avevo un ghiro dato. Perché si gripa vedendo con questi vari ghisoi. Se no non lo aggiunto, se si permette un'altra volta cazzo la Santareggio. Cosa ti ha detto? E che cazzo sei di zenti, una cosa del genere. Vai, ti devo andare a farsi furruggiare la canna, vai. Mancanti, cazzo. Però Puruetto mi pare un po' caretto. Sì, io ti chiamo Tuncia. Dipendemi, Puruetto quando lo gira è frissoso. Ma non con me, tranquillo. No, ma lui è più in gamba, eh. È una persona molto più in gamba. Una di là una santarata della Terrazzana. Lui è una persona molto più in gamba, però quando lui gira Puruetto diventa stravagante. Aspetta un attimino, vediamo un po' chi ha messo questa annuncia, aspetta un attimino. Per chi vuole che essa? Questo è un PC piccolino, un laptop, bisogna mettere. Cioè, leggere bene il modello sulla foto, funziona tutto. Ogni tanto salta. Postati, piccolino, 10 pollici, 35 euro. Atta. Martedì lo comprano di lino, eh. Ah, lino l'invadente. Lino, no, lui c'è l'invadente. Lo zio di Costantino. Invadente giuro, mi ha detto a vedere. Che tu tastiera e cosa mi rubi lui, 10 euro. I punti. Via messaggio, venditore. Lascia vada. Via messaggio. Io lo prendo io. Mouse, tastiera. Mouse, tastiera, wireless 10 euro. Mamma mia, disinfetta tutto mio, se non mi ha grattato lo culo, no? Io ho già disinfetto tutto tanto. Mi so che assai, cosa ne hai combinato? Io ho fatto un giugno, andato, c'è poco a fare. Compito 50 euro, chiedo 100 euro. E tu cosa cazzo? No, ti capì? Esci a vedere, 100 euro. Quello della fianchi va, senza hard disk. Ma che cazzo? Cioè, prendo HP GH3, non funzionate, senza RAM, senza hard disk, 100 euro. Ma culi della culo, cazzo, 100 euro computer, che non funziona. Ma cari dai, così ha giovisto niente vendendo roba di apparecchiature di mixer che costa più di cantare un negozio. Bah, via. E vabbè, ogni tanto già ci trovo gli affari. Io avevo preso dalla signora una tastiera che c'avevo tuttora. L'avevo pagata 5 euro, imbustata. Quando è così c'è un affare. Ho visto un mixer nel mercatino. 300 euro, però non 24 canali, non funziona due canali. Antes date l'attacco a curo. Da voi andate da Rudeli che te ne basta la gara. Ma cazzo, ma no roba, ma cioè, ma ti pare tu vendo un computer fasciato, 100 euro, ma che cazzo si rubiglia, ma tira giù computer fasciati, ma mica ti vanno i PC rotti. Eppure che c'ha niente, ma un coraggio, boh. Ma coraggio solo, oh yeah. Come sto? Cosa lu? Aspetta, mamma mia come sto? Gabba! No, io la roba è fasciata, no. Già! Ero un bestialito quando mi hanno venduto i gasci più manne. Che c'era il coso, c'era dei cannon, cazzo, che non funzionava ne vero, un bestialito ero, meno male che me li hanno aggiustati. Ero già cazzo in TV quello. E guarda, stavo vendendo un iPhone XS. 256 GB, 200 euro. Lì attaccarsi da culo. Si chiama Edda Cinza Pleba. Lì attaccarsi da culo. Paghi se paghi su andando in via Grazia Redda e sto vendendo il Mi 10, cazzo. 179 euro a 100 volte migliore di Ghisu. C'è una memoria allucinante, c'ha. È una RAM allucinante, c'ha. parla di attaccarsi da culo. Ma vabbè, l'iPhone 156 giga per quel prezzo è buono, ha voglia. È velocissimo l'iPhone, a me non mi piace quel sistema. No, mi piace, preferisco Android, che è più veloce l'iPhone dell'Android. Ce l'ho visto. A me fate cagare. Eppure ti posso vedere che fece un telefono migliore di chi sa cagata. Stavo vendendo un telefono di Vespa, nuovo, ricorniciato, bello, nuovo, 500 euro. Telefono Vespa Specia, con numeri di telaio leggibili, con libretto piccolo. La Vespa è stata sabbiata, riverniciata, perfetta, colore rosso, la vendo per cambio progetto. Posso spedire in tutta Italia. Con la spedizione verrà chiusa in un bancale di legno e coperta per ritiro a mano. Non esitate a contattarmi. 500 euro. Cazzo, come vuole, ma ho tolto tante le servizie, e lì siamo. Alla fine ci spendi quei 2.000-2.500 euro. Si dà attacchi a culo. Magari uno che c'ha un motore glielo butta sotto e va bene. Motore, ci vuole la sella, serbatoio, ruote, tutto. Forcella, manubrio, tutto ci vuole, tanto l'impianto elettrico. E beh, mica drubbigli così, cazzo, cosa ti stai pigliando? Una moto che non vale a nulla. E pare che verrà via mio zio, verrà via una, vendente, 1.000 euro. A verrà vai tu. E trova questa bicicletta, beh. 150 euro la sta vendendo, con le ruote grandi, però è... Ma... Cosa è questo? Non è elettrica, è normale. Con le ruote grosse, però. Andiamo a richiedere venga. Dopo che pesanti. Vai a attaccarsi dal culo. E ti ritrovo gli affari, stavo vendendo la Vespa a Piaggio 125 Primavera. 5.300 euro. Sono belle. Sono belle, lo speciale, bella le due. iPhone 11. Rosa, quella per le donne però, con la mela rosa, 450 euro. Poi Xiaomi Mi 10, T Pro, 256 di memoria e 8 giga di RAM, nuovo, 300 euro. È buono. Cara che vendendo chi sulla Vespa, special. Allora, aspetta. Allora, Vespa Special ad Alghero, non so chi è, questo 5.003 Primavera, Alghero Sardegna, non so chi è. E gatto di voi? 5.003. E se vado di bagaggia? Ma è quella col faro rotolo, non mi piace, a me piace quella col faro quadrato. Vabbè, tu sei più stile anni 80. E se invece lo mattesse? Ma ti dica se sei giovane, è vecchia, e se la fanno pagare sì. A proposito, ho visto, se non sbaglio, da Media World c'è il computer 550 euro, bello, come lo voglio io, in offerta. Un i7 di processore, se non erro c'è anche 500... forse ho 250 semi bari, non lo so. Come si dice, l'SSD, questo è super veloce. Tu pensa che Marina c'ha l'i5 con l'SSD, penso una scheggia, lo accendi in 3 secondi, lo spegni in 3 secondi, è ben veloce. Buono, vabbè, sono tecnologia moderna. E tu la Vespa mai avuta ce l'hai con dei giovani? No, dopo l'ho guidata. Se ne fanno pagare. Io lo so quanto se ne fanno pagare. Lo so, mi sta presa mio fratello Carletto, se la sta costruendo piano piano. Cioè ce l'ha già. Ha qualche cazzatina da fare, tra una cosa e l'altra gli è venuta 1.000 euro, mi sa. Un affare ha fatto. Ragazzi, è andato dal vecchio. Antonio è andato dal vecchio. Perché ti è andato dal vecchio? Non ho capito. Ma sei di giovane. Vabbè, cacca, non va. Ho capito, cosa ha detto? Che dice che ti ha dato del vecchio. Del vecchio mi ha dato. E invece abbiamo 10 anni di differenza, non è che sono tanti, eh. Non so. Andrei più giovanotto. Sempre del vecchio, vuole segnare. Vabbè. Io mi ricordo che Carletto ne aveva una tanti anni fa. Sì, tanti anni fa, 30 anni fa. Ah, così è. E una l'abbia venduta a cosa? A Besciolino l'abbia venduta. Mi pare. O gliel'aveva venduta lui, non mi ricordo. No, invece l'abbiamo BK. Ma come ci dirai dunghi sa moto? Sì, a voglia, cazzo mi ricordo. Guardate, una ventina d'anni fa. Che passavano qua al monte. Lo sei due. Era pure la guardia che si avvespa. Ma però sono pesanti. Mi pare che non era manco truccata. Ma sono a piedi. E fai porta, sono andato a pigliare la patente e pigliavano i barugura a tutti. Cioè? Rifaccia le domande. Te cazzo la compagnia io battiota. Mi tiro il microfono, sennò poi sto male, cazzo. E poi rompevo le scatole alle ragazze, rompevo le scatole. Ah, così è. Vai giù. Andiamo bene, andiamo. Che è te? E allora? Da chi sono usciti i battenti, da me non comprendere nulla. No, non hanno più pigliato molto. A travaglio andate sei oggi. Io? Certo. Io domani c'ho. No, domani, dopo domani, un telefonino da sistemare. Mi domani c'ho il dentista anche tu, alle 11. Lui, ragazzo. Povero me. Aia. Andiamo bene. Vai bene a regabomboli. Ehi, la bombola te la gugliupa. Ti passa tutta la gara. Alto. Te la giubato da quelli bisanti io. Oh, yeah. Tipo... A fare parti sintetici. Anche io quasi 12 zuri, 13 zuri. Pure i bomboli sono pesanti. È un impegno molto grosso. Invece questo travaglio è un impegno così. Altro che. Prima ti controllare il piano, se è a posto, se c'è da tagliare l'erba, magari se c'è qualche pietra, così. Puoi fare il piano con la sabbia. Poi va rullato. Una volta rullato ci va il telo, quello. Come si chiama? Quello bianco, per non far crescere l'erba. Adesso non mi ricordo il nome, cazzo si chiama, vabbè. Quello lì, comunque. Poi va acchiodato, con i chiodi lunghi. Una volta acchiodato, poi si prende le misure e ci va il prato sopra. Ma sempre te la devi garrare, ma no un metro cubo, no. 6 metri, 7 metri, 8 metri di sabbia. Un culo deve va. E lì te lo spacchi il culo. Cavolo, altro che. Allora, la prima volta l'ho chiamato lì a Sant'Orsola. C'erano 6 metri di sabbia e 6 metri di ghiaione. Tutta la santa lì di chi? Tanto tu devi dire a me, sono un tiro. Uno straccio, vero? Non finiva più questa cosa, non finiva più. Perché dovevi fare il piano, capito? Prima abbiamo messo il ghiaione sotto e poi la sabbia sopra. Non finiva più. Dalle 8 del mattino abbiamo finito, mi sa alle 8 di sera. Esuga. Pesante come lavoro. Amata di Nevara. No. Pesante. E poi manovrare. Ho giovato, a voglia. Lavori pesanti. Io mi ricordo via principessa Yolanda mi pare. In questa casa al quarto o quinto piano mi pare. Appena non veniva l'ascensore in chivino. Prima ti hanno massato la sabbia con i secchi, uno secchi grande, quello della tinta. Cioè, Antu, non pieno, pieno, pieno, però a due, mi sono quarto, quinto piano. Poi la volta finita la sabbia, i sacchi di cemento da 50 kg. Sì, ma non me la beate la carrucola. No, ma ti va a prendere la carrucola in chivi. No, no, me la portata su dentro l'appartamento. No, la carrucola andava bene, a parte che era... si pone la carrucola, devi... non eri assicurato in chivi, capito? Ma non andava così, no. Allora, ne vedo due che carrelle con le rode che attano di caribe. Sì, vabbè, ma poi ti parlo di 20, 25 anni fa, sono di più pure, ero ragazzino, ero. Quando ha finito la tornata, arrivi a casa, uno straccio, pesante, pesante il lavoro, volevo, ma è pesante. Ce l'ha giù fatta voi, gli antomaniari, anche al comune. E di là? Ah, prendevo 50.000 lire al giorno. Poi ci travagli e veniamo a pure di più. Vabbè, purtroppo. E insomma, non vale prende assicurato. Sti vidi, ha bisogno di un muratore, sti vidi, c'è poca differenza. Ma io ti dico una cosa, giusto, è giusto che sia così, Sì, ma dico, c'è poca differenza. Già lo so. È giusto che siano assicurati, è giusto che sia la paga giusta, è giusto tutto, perché no, non è giusto che c'erano gli schiavi in quegli anni. Purtroppo, se vuoi travagliare la gussi tanto. Ma è sbagliato. Lo so. Se non rimani senza travagliare, purtroppo i soldi facevano comodo. Lo so. È sbagliato perché anche sono anche incoscienti chi fa queste cose. Ma che chi su cazzo di ingaggia da ricare, cosa succede? Purtroppo. Dimmi cosa succede, cosa succede? Cazzo ti pigli la denuncia a Edo, cioè succede un casino niente me. Lo so, lavora nel nero non è che. Cioè, ti puoi fare male. Cazzo, una volta mi ricordo aiutante elettricista. Oh, prendono le misure per mettere le canalette in soffitto, no? Questa scala prima mi si chiude in terra, c'erano le canalette in coso, quelle in acciaio, che ci passano i cavi dentro. Meno male, ma è andata bene il giorno. Mi si è piegata la mano, Ci ho messo praticamente la mano in mezzo tra la canaletta in acciaio e il, diciamo, il pavimento, va? Il pavimento, vabbè, il pavimento. Ma è andata bene, lui adesso non si è cagato. Infatti sono finito pure all'ospedale, perché la mano mi faceva un bel male. Mi avevano detto, dove te l'hai fatto? È a casa. Si disoccupa poco il lavoro in Kiwi, io proprio lui. Si informano me. Tanto Kiwi, ma il giorno mi è andata bene, no bene di più. Un casino. Si informano e poi chiamano cazzo quello della ditta, succede un casino, succede. Ma c'ha pechi su un carotto che glielo dici, non so il casino che succede. Ma stasera a Costantino dice. E c'era la gente. Già lavora lui. L'offio travaglia sempre. Da solo era. Stasera sì, c'era Lino, c'era e lui. Ho capito, ma sai cosa, devi stare attenti quei minorenni lì, Già ve l'avevamo detto. Non possono stare lì. Non ci possono stare, ma tu sei tesserato? Certo che sì. Ma non me ne forzi tu tesser, vedi che stanno una volta a ghetta, vedi che va. I soldi sono da Mirko, l'amico ci vado di più. Non fa altro, questo qua sta ad essere in Chivi, ad essere via Sardegna, ad essere a Ghidà, ad essere, domani. No, non mi interessa, lo sai cos'è, che non voglio rotolare il guglione delle forze, magari succede qualcosa, vengono le forze dell'ordine, comincia già chi è che è tesserato, chi non è tesserato, e ne esce un casino. E vabbè, basta che abbia i nominativi. No, già ce l'hanno già. No, dico, nominativi nostri, capito? Ma lo devi trascrivere. Perché nominativi, poi... d'accordo, se uno vuole travagliare, così, se no... ma siccome non voglio rotture di balle, l'ho fatta. Oh. L'ho fatta io e Sara. E anche il capitano l'ho fatta, perché qualche volta vado anche lì. Il capitano dov'è? Via Boggino. Ma sei stato costretto? No, l'ho fatta io per non rompermi il coglione. Quando ci vai? Quando vai lì? Ogni tanto. Ma di pomeriggio, settimana? Oh, se scelgo sempre il giove. Ce l'ho fatto pure io, ma non c'è mai parcheggio. Non c'è mai parcheggio lì. Ma ogni tanto, non sempre. Sono andato un po' di volta, non c'aveva Pirotto, Anna Maria, quella c'aveva al circolo lì via la Marmora, si chiama, non so, mi ricordo manco il nome. Ah, la Tentazione. E pure lui c'è una girata un circolo, ma abbiamo una panetteria, mi pare, chissà. Già la conosco, non l'ho più vista. E lì la Tentazione c'ha sempre, via la Marmora. Non ci vado mai. Non ci vado mai lì. No, sono andato un po' di volte, però c'era Anna Maria, quello, poi sono preso mia bugino. Poi per via del Covid non c'era nessuno. Troppe un casino, come lo sai, mascherina, quella. E poi non stavo andando più. Sono a pagare l'affitto senza lavorare, come fai? Già lo so. Rubzeddu lavoravano forte, me. Ma quelli, Antonio, è un brutto, cioè, se uno va a piedi tanto quanto, ma uno che ha un mezzo non c'ha parcheggio lì. Ma scusa, ma il circolo non ce l'hanno sempre Rubzeddu? Sì, al monte. E dove? Ma non si chiama il circolo Rubzeddu, si chiama la cantina. Circolo la cantina, detti. Di fronte al parco, via Montello. Di loro quello lì. Sì, perché il parco. Me lo stavano dicendo. Di loro, gestione ce l'ha. Oggi mi c'è uno di un karaoke, cazzo, venirà uno, cazzo, che... mamma mia. Tagliando stava. Che dai. Quanto è l'aino? Già. L'hanno fatto fuori una volta, il karaoke. Sì, lo farò sempre. Ma adesso non ce n'è di questo periodo. No, adesso no. Come fai? D'estate. A che divandemo? Ma ultimamente c'era Coso. Costanzo Sanna cantava solo lui. Che karaoke? No, vabbè. Cantava solo lui per via del Covid. Sai com'è, no? I microfoni, quella. Vabbè. A che di già... Quindi ci hanno preso anche il parco, fanno le serate loro lì. Eia. Andava qua anche quel baretto. Che baretto? C'era un bar dentro le cose, prima. E dove? Dentro i giardini. Il chiosco. Eia. E c'è sempre. E di gare chi so? E Pirotto. Ha tutto si ha comparato. C'ha in gestione. Vabbè, ma si travaglia già andare. Sì, che lavoro. D'estate di più, d'inverno un po' meno. D'inverno che avanda. Di domenica se ci sono belle giornate già apre. Già va la gente. Chiappa. Vabbè. Io un periodo ci bazzicavo lì. Anch'io ci andavo, ma c'era cosa andavo di più. Gianni Luppi. Poi s'aveva preso... il bar lì a Coso, a Badimanna, faceva karaoke, faceva serate, faceva la pizzeria, faceva la cucina, faceva pizze, fainè, tetti composti. Chi sono da via un amico mio, Fondai? Fondai? Il bar di Badimanna. Ah, Cristian. Ehi! Ecco tu, Cristian. Eia! E poi ce l'ha preso Gianni, un tipo. Sì, sono chiusi però. Avanti, su periodo. No, sono chiusi, non so cosa è successo, boh. Oh, se in primaria andai, sta anche su mare, eppure può lavorare tantissimo. Ma cosa è successo? Nel senso, tipo, pagamenti strani, non so, boh. Affitto arretrato, boh. E quando mai? Lì già è bello d'estate. Al fresco si fa, già si può, si sta bene. Già lo so, già. Quella donna si bazzicava qualche anno fa. Paga. Io non so, che se ne sei vinti, so. Poi via. Oi. Ed era bello anche lì, la verità. Ma drummi due tanto. Ega, io. No. Non sei il tracco. E adesso mi piano. Mi giro dall'altra parte e drommo un poco. Di solito tu chiudi perché sei stanco. Ma oggi cosa ho fatto? E sapete cosa ho fatto oggi? Buh, mamma tu più. Ieri grandi pulizie. E oggi cosa ho fatto? Oggi mi sa nulla. Sto pensando cosa ho fatto. Poi non sa niente. Sono pensando, come pensavo. Ah no, sono stato al CAF oggi per mamma, ho preso l'appuntamento e ci devo andare giovedì a mezzogiorno. Mamma mia, piano. E per mamma è preso la pensione, se non lo fai lo devi spedire all'INPS, se no te la bloccano. Tutti gli altri brassi che ti bisogna fare. Andiamo. Chiappa. Come stai? Ok, Luda. Io dromo che sono stanco. Buonanotte. Tocca, io vado a Durroni. Ciao, Antu. Ciao, Sara, buonanotte. Ciao. Ci vediamo. Sono complicazioni. Questa settimana ci vediamo. Ciao. Buonanotte, ciao.